Zolt. Fulminati in azienda. Font, sono davvero onorato del prezioso dono che mi sta facendo sostenendomi in questa importante campagna elettorale. Ma no, ma non sono io che sono onorata. Ho sempre pensato che lei fosse il miglior candidato al ruolo di presidente del circolo del golf della nostra azienda. Grazie, lei lo sa che io non mi recandido per mere vague ragioni di potere personale. Lo faccio per il bene dell'azienda. Diciamo che traslo la mia esperienza nelle relazioni istituzionali dalla teoria al campo pratica. Lo so, non sono nata ieri. Il golf è il nuovo set per le relations. Esatto. Oggi il network si costruisce sul green, mica le cene dei totanis. Ricordati, Fuente, che per fare relazioni si parte dal calcetto, ma devi essere giovane e avere il fisico. Certo. Poi sali nella gerarchia aziendale e passi al tennis. Sei meno giovane ma hai più classe. E infine, quando sei saggio e hai fatto abbastanza soldi, si passa al golf. Ho capito. Calcio, tennis, golf. In pratica più carriera fai, più la dimensione delle palle diminuisce. Gentry, non mi dire che la porta anche quest'anno pensa di fare il presidente del circolo del golf. E invece sì, quello non lo smuove nessuno, Grazie a amici del golf ha creato una cordata di relazioni e sta vinto a poltrona come allora l'Edera. Il vostro direttore generale Marco Sulpezzo ha detto basta con l'uso dei circoli aziendali come occasione per costruire rapporti illegittimi di potere personale. E che fai, capo? Te candidi pure tu? No, io no. Però posso opporre un altro candidato da me favorito. Per esempio, la mia carissima amica Katia Urlo. A capo, già in azienda pensano che ci sia una tresca tra te e la Urlo. La candidata saprebbe almeno giocare a golf. No, Centri, ma cosa c'entra? Io scenderò in campo personalmente per sostenere Katia Urlo. E tutti la voteranno per simpatia nei miei confronti. Del resto, ubi maior, minor votat. Marco, ma sei sicuro che vinco le elezioni da presidente del circolo del golf? Ma certo, amore mio, non ti preoccupare, abbiamo organizzato una campagna elettorale straordinaria. Sì, ma a me cosa interessa di diventare presidente del circolo del golf? Ma che ruolo è? Ma no, ma amore, ma sono ruoli importanti che aprono molte porte. E poi, da un sondaggio, abbiamo capito che una candidata donna giovane ha molte più chance. Ma se vinco mi intervistano alla televisione? Vabbè, tesoro, forse la televisione no, ma di sicuro ti faranno un servizio sul giornale aziendale. Ma chi se ne frega? Non lo legge nessuno quel giornaletto sfigato. Scusa amore, una telefonata sull'altra linea. Scusami, bacini, bacetti. Pronto? Dottore, buongiorno, sì. No, non è che volevamo fare uno screzio alla porta, no, ma ci mancherebbe altro. Ma no, era solo per offrire una candidatura alternativa, per dare un po' di visibilità ai giovani. Ma no, la Urlo era solo una candidatura bandiera. Ma non lo so neanche io chi è. Paco? La Medisi, direttore. NCS, non ci siamo neanche stavolta. Ma chi ti ha detto di tempestare di volantini in un modo così indiscriminato? Scusi, ma non capisco, cioè il volantinaggio si fa a tappeto. Sì, a tappeto sì, ma senza arrivare alla scriveria dell'onorevole, che lo sanno tutti che gioca a bridge ogni domenica con la porta. Non ci fa casa, ingenuo, non ci può arrivare, non ci arriva. Ma se era una roba tipo massonica, la me lo doveva dire. Ma quale massonica? Ma che c'entra massonica? Marco, secondo me te conviene chiamare a Urlo e farle ritirare la candidatura. Centri, mi sa che hai ragione, aspetta che la chiamo subito, dai. Pronto, pasticcino mio, ti volevo dire una cosa, ma lo sai che avevi proprio ragione? Ma sì, diventare presidente del circolo del golf non è un ruolo abbastanza prestigioso per te. E poi il giornalino aziendale è proprio sfigato. Pronto? Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z2o 1t.